A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Stefania Riosto, nata a Roma il 28/7/49, risiedo a Como in via Martino Anzi numero 32. La mia professione è sociologa. Sì. All'inizio fu il test Omega, poi venne tutto il resto. All'inizio fu Stefania Riosto che dall'interno delle feste di Arcore vide, memorizzò e poi denunciò fondi neri, magistrati corrotti e sentenze comprate. Anni dopo altre inchieste sarebbero partite intorno alle serate di Villa San Martino. Oggi non c'è soltanto il processo Ruby a preoccupare ancora il Cavaliere, condannato in via definitiva a 4 anni per frode fiscale per i diritti TV Mediaset. C'è la Puglia, con la sfilata in aula dell'Angelina Jolie di Bari e di tutte le altre ragazze di Tarantini. E c'è a Napoli l'inchiesta sulla compravendita dei parlamentari, svelata da Sergio De Gregorio. Vecchi e nuovi accusatori del Cavaliere, sul cui seggio da senatore si abbatte la legge Severino, che stabilisce la decadenza per chi abbia riportato pene superiori ai 2 anni. Vecchi accusatori, dunque, come Stefania Riosto, che ora ci dice: se tornassi indietro non rifarei nulla. E nuovi, come Sergio De Gregorio, che ad A ciascuno il suo svela: così ho cercato di fermare la rogatoria ad Hong Kong. Aveva gioielli preziosi ed abiti eleganti Stefania Riosto nelle foto che la immortalano insieme a Silvio Berlusconi ad Arcore. Sullo sfondo acconciature da fine anni Ottanta, ben diverse da quelle delle olgettine frequentatrici di altre cene di Berlusconi. Il teste Omega le guarda e ripensa alle feste di suoi tempi, ma oggi, dopo tanti anni, ancora più processi, polemiche e veleni, anche se oggi è arrivato pure il risarcimento alla CIR di De Benedetti per il lodo Mondadori, uno dei fronti aperti proprio da lei. Oggi l'ex teste Omega si sfoga e dice: sono trattata come una paria, oggi non rifarei nulla. Io in maniera inconsapevole ho, diciamo, offerto questa lotteria all'ingegnere De Benedetti, perché io non sapevo che poi tutte le mie dichiarazioni, il tema decidendo mi si allargava così su tutti, diciamo, gli altri processi. Quindi per me ha vinto una lotteria De Benedetti, no? Si è rivista negli anni in cui tutto questo stava cominciando? E assolutamente sì, il percorso doloroso che ho fatto, che è stato indicibile, che alla fine è quella che ci ha rimesso veramente tantissimo in termini proprio di salute, di vita, sono stata solo io, guardi, questa è la verità, questa sentenza è l'epilogo di un percorso giudiziario. Conferma anche quello che lei diceva. Certo, a distanza di 20 anni, poi non ricordo più niente, a dire il vero, perché se il mio percorso non è stato facile. Non è stato facile? Non lo è ancora oggi, ma comunque. Ma questo perché si porta addosso, diciamo, quel marchio di essere il teste Omega? Ma certo, io sono una persona scomoda, con la quale tutti evitano di parlare, di argomentare. Cioè lei è evitata? Assolutamente sì. Se lei all'epoca avesse, diciamo, immaginato anche le conseguenze che personalmente, a quanto ci racconta, sta pagando per il ruolo avuto in quei processi, toghe sporche, appunto, contro Silvio Berlusconi, si sarebbe comportata diversamente oppure no? Oggi, se avrei preso il primo volo, sarei partita non so dove. Non avrebbe deposto, non avrebbe raccontato tutto quello che ha raccontato? Mai. Con il senno di oggi, mai. Per tutto quello che ho pagato, e ho anche rischiato di morire, sono stata in rianimazione. Denunciare una persona, anche se poi i giudici la ritengono colpevole, è comunque sempre un atto grave, un atto forte, capisce? Non è una cosa semplice. E per tutto quello che queste sue dichiarazioni hanno provocato, invece? Non è che io ho cambiato il mondo, perché dalle mie dichiarazioni ci sono stati 1000 e altri giudici corrotti e altri parlamentari corrotti. L'esperienza di oggi non rifarei mai, questo fuori discussione, ma per di più ho anche la disillusione che questo mio sacrificio abbia prodotto dei fatti positivi, perché la corruzione è ancora all'ordine del giorno, cioè leggiamo, no? E leggiamo tutti. Certo. Sono stata un granellino di sabbia in un deserto e mi sono presa tutto addosso, Raffaella, tutto il vento che è arrivato. Di tutto quello, ecco, che di quel mondo lì, a lei che cosa è rimasto oggi, dopo così tanto tempo, dopo che ci sono stati processi, sentenze, dopo che si è chiusa, diciamo, quella pagina lì, forse anche se sono rimasti, sono rimaste le scorie di quella stagione, ma lei che cosa è rimasto? Sono rimaste delle foto e degli abiti e dei ricordi, cosa è rimasto di quella stagione lì? Guarda, a me è rimasto il silenzio che ho cercato a tutti i costi, no? Mi sono chiusa, come si è chiuso questo caso, anch'io mi sono chiusa in me stessa e nella mia piccola vita, perché, guardi, è difficile così ripercorrere tutto l'iter. Guardi che adesso voglio dire, sì, alla fine siamo arrivati con questa sentenza di qualche giorno fa e siamo nel 2013, i fatti sono cominciati nel 1996. E le devo dire la verità, una parte di giornalisti, come posso dire, di parte schierati, non mi hanno lasciato stare fino al 2004, quindi io ho fatto una battaglia da sola con il mio avvocato, che ricordo veramente con grande, avvocato Bissi, con grande stima e affetto. Ci siamo fatti una battaglia di cause per diffamazione terribili, hanno detto di tutto su di me. In qualche modo, secondo lei, c'è stato qualche errore che hanno commesso nei suoi confronti anche l'autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza, la Procura? No, assolutamente no. Beh, io le devo dire il vero, oggi, ecco, l'esperienza che ho anche giuridica, se non ci fosse stata la dottoressa Boccassini che trova le prove su quello che io ho dichiarato, beh, io non sarei stata più una donna libera, questa è fuori discussione, ma lo so oggi e non lo sapevo nel 96, capisce Raffaella? Ma lei, che all'epoca era molto giovane, ma si rendeva conto anche della grandezza, diciamo, della gravità delle cose che ascoltava? No. Sa perché? Perché io, vivendo quel mondo, l'avevo quasi assurda come un fatto normale, no? Che si dovesse corrompere un giudice per ottenere dei favori, che si dovesse corrompere Tizio, Caio, Sempronio, non lo so. Però io non lo facevo perché non ero capace neanche di farlo, non lo so. Ma se era un fatto normale acquisito, perché poi decise di andare a denunciare tutto questo? Ma perché mi sono vista davanti a un fatto compiuto, capisci? È arrivata la Guardia di Finanza, lì, in via Monte Napoleone. Mi hanno accusata perché c'era la storia dei libretti al portatore, della Mondadori, 200 milioni, non so, ricorda lei? Certo, certo. E quindi, insomma, lei quando arriva, anche se quel mondo lo conosceva e quindi in qualche modo lo reputava normale, quando arriva la Guardia di Finanza, lei è per un istinto di difesa che comincia a raccontare tutto. Esattamente, mi dicono, ma questi 200 milioni è una dazione di denaro, perché, no, guardi, ho detto, dico questo così, poi avevo purtroppo, per caso, per fatalità o per consuetudine, tutte le foto dietro nel salone dove era il mio ufficio, e c'erano tutti, c'era Squillante, c'era Previti, c'era Berlusconi, Leonardo Mondadori, c'erano tutti i personaggi che voglio dire, si frequentavano così in quella Milano da bere, che erano quegli anni che conosciamo. E ora come vive Stefania Ariosto? Come vivo? Lasciamo stare Raffaella, grandissima difficoltà, ma comunque vivo, non c'è problema, c'è problema. Se incontrasse Berlusconi, cosa gli direbbe? Ma gli direi si rilassi, si viva la sua vita, i suoi 77 anni. Lui si sente legibus solutus, lui è al di sopra delle leggi, lui sente un re. Infatti anche se lei coglie piccoli dettagli così, la Marina a Roma, la Barbara che mi piace tantissimo, Berlusconi, forse perché è figlia di Veronica che ha studiato filosofia, mi piace di più. Lei dice mi piace Barbara Berlusconi, le farebbe piacere incontrarla e anche spiegarle un po' tutto quello che la portò a parlare, a diventare… Assolutamente sì, vorrei anche incontrare Veronica e mi commuovo solo il pensiero, veramente. Sì, perché è importante, capisce? È importante. Allora, no, ma stavo dicendo di Barbara Berlusconi, ecco, questo fatto che lui, se non può stare lui al seggio senatoriale, ci può stare Barbara, è un fatto di Berlusconi, non della povera Barbara, povera Stessa, che merita tutto il rispetto assoluto, perché lui ha l'idea della dinastia, capisce? Della reggenza, capisce? E quindi… Lui è corrotto. Ma ha mai pensato di scriverle a Barbara Berlusconi? No, perché non saprei neanche dove, non lo so, però ho visto un'intervista su non so dove, che lei è stata, sì, da Santoro, e che mi piace da morire, perché forse è questa linea materna che la fa essere così bella, ancorché un po' libera così, ma va benissimo che si goda la vita. Però va in aiuto del padre, come tutti si devono fare, però non ci va nel modo cigno come ci va qualcun altro, capisce? Non e quindi per questo lei vorrebbe spiegarle perché appunto 20 anni fa ormai lei cominciò a raccontare. Io me le ricordo piccole, questi figli erano di una bellezza straordinaria, lo sono tuttora, capisce? Anche la sorella che è in America, che era la più simpatica, il piccolo Luigi, me li ricordo da piccoli, ecco. E quindi ho visto questa ultima intervista e mi sono veramente un po' commossa, dico giustamente deve difendere il padre, perché no? Però c'è sempre dei limiti, poi ho visto che ha trovato supporto anche dal suo ex professore, insomma c'è tutta una storia diversa, di grande elegia, diversa dalla precedente, capisce? Quindi, certo, certo. Quindi, signora Ariosto, io la ringrazio, è stata molto gentile. In altre inconfessabili trattative nei retroscena della politica ci conduce invece l'ultimo accusatore di Silvio Berlusconi, Sergio De Gregorio, dalle cui parole è scaturita l'inchiesta sulla compravendita dei senatori per far cadere il governo Prodi e ora le ultime indagini sulla rogatoria stoppata ad Hong Kong. A ciascuno il suo. In altre inconfessabili trattative nel retroscena della politica ci conduce invece, nella seconda parte di A ciascuno il suo, l'ultimo accusatore di Silvio Berlusconi, Sergio De Gregorio, dalle cui parole è scaturita l'inchiesta sulla compravendita dei senatori per far cadere il governo Prodi e ora pure le ultime indagini su quella rogatoria stoppata ad Hong Kong. Comprare i voti dei senatori per far cadere Prodi. La chiamarono Operazione Libertà, la manovra che portò alla fine del suo esecutivo nel 2008. Un passaggio di schieramento e un passaggio di soldi. 3 miliardi è quanto messo a verbale da Sergio De Gregorio, ex dell'Italia dei Valori, ex eletto negli italiani del mondo. Un uomo dalle tante vite e dai fitti misteri, che ora però dice ha deciso di fare pulizia e ai magistrati ha raccontato anche di come cercò di fermare la rogatoria della Procura di Milano ad Hong Kong su certe società del produttore Agrama, lo stesso del processo Mediaset. Il 23 ottobre a Napoli la prossima tappa decisiva pure per Silvio Berlusconi, la cui marcia indietro sulla fiducia al governo Letta viene letta così da Sergio De Gregorio. Ha combinato un pasticcio vero e sapendo comunque di andare a sbattere. Ma secondo lei ha provato anche a fare offerte di qualche tipo ai politici del suo partito? Ha scatenato Verdini, che fu il bomber della sua campagna acquisti del 2010, e Verdini in genere ha argomenti convincenti. Ha visto delle analogie con l'operazione che la riguardò negli anni passati col governo Prodi? Sembrava di essere tornati all'operazione Libertà, un voto sopra, un voto sotto. Sembrava essere ritornati a quegli anni furono durissimi dal punto di vista dello scontro e poi gli ascoltatori sanno bene come andare. C'è stata un'inchiesta intorno al fatto che lei e la sua formazione politica avete ricevuto 2 milioni di euro in nero dalla PDL con l'obiettivo di far cadere l'allora governo Prodi nel 2008. L'inchiesta è nata dalla mia stessa volontà di presentarmi ai magistrati per ripulire la mia coscienza. Non ho fatto una scelta semplice, ho anche corso dei rischi e mi sono caricato dei reati. Lei per questo ha chiesto di patteggiare? Di patteggiare, e non è detto che me lo consentano, ma in ogni caso non mi importa. Quando ho fatto questa scelta, l'ho fatta in maniera responsabile, avevo chiesto a Berlusconi di non far morire l'esperienza del movimento politico italiano nel mondo portando in Parlamento dei giovani, non lo ha fatto, non mi importa. L'importante tuttavia è che io abbia avuto la possibilità di mettere fine a un'esperienza anche ripulendomi interiormente. Si trattava appunto di 3 milioni di euro, uno destinato al finanziamento del suo partito, gli italiani nel mondo, regolarmente registrato alla Camera, e due in nero, con l'obiettivo di far cadere il governo Prodi. Qual è stato il percorso di questi soldi? Il presidente Berlusconi ritenne di dover incaricare per le consegne di denaro Walter Lavitola, che si era fatto tramite con Berlusconi, della necessità di non irritare gli altri alleati di partito, probabilmente per guadagnare meriti ai suoi occhi, e quindi accettai che me li consegnasse la Vitola. Finirono sui conti correnti del gruppo italiano. E poi che cosa è successo di questi soldi? Sono stati spesi per la costruzione di un progetto politico che, avendo la sua televisione, le sue sezioni in tutta Italia, avendo delle diramazioni in molte parti del mondo, si è indebitato fino al collo per tentare di fare una iniziativa, devo dire forse un po' megalomane, che in qualche modo costava molto, ma molto di più di quello che io ricevetti da Berlusconi. Tutto questo fu preceduto da incontri, telefonate, insomma conversazioni anche dirette tra lei certamente, e il Cavaliere. Avevo le porte aperte a Palazzo Grazioli, a Roma, via del Plebiscito. Che espressioni usò? Mi disse: da questo momento non avrai più problemi di soldi, dimmi che cosa ti serve ed io ti sarò vicino. E io quantificai l'esigenza del movimento politico in quel momento in 3 milioni. Se avessi detto di più me ne avrebbero probabilmente dati di più. Come seppe questa notizia di Hong Kong? Ricevetti la confidenza del console generale d'Italia ad Hong Kong, il quale mi spiegò che c'era questo problema. Era, ricordiamolo, una richiesta di rogatoria partita appunto dagli uffici giudiziari milanesi diretta ad Hong Kong per l'inchiesta Media Trade, e lei, ricevuta questa confidenza, in che modo cercò di bloccare questa rogatoria? Fu invitato a prendere contatti con la comunità degli imprenditori italiani ad Hong Kong da due imprenditori milanesi. Partii per una missione, ero presidente della commissione difesa, incontrai il ministro delle finanze, incontrai il ministro degli affari costituzionali, capii che Hong Kong aveva voglia di rapporto con l'Italia e soprattutto aveva delle istanze nei confronti del nostro paese. Volevano incidere sul nostro governo perché fosse revocata la presenza di Hong Kong nella cosiddetta blacklist dell'amministrazione finanziaria. Volevano che si costituisse in Italia un'associazione di amicizia parlamentare, una serie di richieste, tra cui quella di costruire un appuntamento segreto fra il premier di Hong Kong, cattolicissimo, e il Santo Padre. Approfittando di questa necessità del presidente Berlusconi, cercai di rendermi disponibile ad ogni tipo di richiesta, mi misi in moto mantenendo un ottimo rapporto, che mi fu certificato per iscritto dall'alto rappresentante di Hong Kong presso l'Unione Europea. Ma lei perché all'inizio era ad Hong Kong? Invitato dalla comunità degli imprenditori italiani ad Hong Kong. Non ho fatto solo cose spregevoli, ho fatto anche qualcosa al servizio delle funzioni che rappresentavo. C'è qualcosa di quello che lei ha raccontato ai vari magistrati che l'hanno sentita che ancora non è venuto fuori? Questo mi consenta di non dirglielo, di sicuro ho detto tutto ciò che sapevo. E l'ultima cosa che io le chiedo è una storia molto vecchia, del suo incontro con Tommaso Buscetta. Chi l'ha avvisò? Da giornalista professionista feci un mirabolante scoop. Direi di sì. Di Tommaso Buscetta sulla nave da crociera in vacanza, nonostante il suo status di pentito, accontentato dai magistrati di Palermo che lo mandarono in crociera con la famiglia, promessa che lui aveva dedicato alla moglie da molti anni. E io ebbi una soffiata, credo, da una parte dei servizi di sicurezza dello Stato. Cioè dei servizi segreti. C'era una parte che non era d'accordo e forse aveva ragione a mettere Buscetta su una nave da crociera che faceva tappa a Catania. Non fu un caso che io mi accorsi che a bordo della nave c'era una famiglia citata nei verbali addirittura di Buscetta come fiancheggiatrice di un clan camorrista in Campania. Fu saggio probabilmente prendere Buscetta e portarlo via. Perché cioè ha rischiato Buscetta quel giorno di morire? Ma hanno rischiato anche i 700 passeggeri, perché chissà che cosa sarebbe potuto accadere a Catania. Se la mafia voleva consumare una vendetta, quale territorio migliore di Catania? Se questo è il passato, l'ultima mia domanda è sul futuro di Sergio De Gregorio. Probabilmente mi rimetterò a fare il cacciatore di scoop. Cioè torna a fare il giornalista? Probabilmente sì. Per riascoltare tutte le puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti.